Prato bella saggio, quei fiori di maggio, fotocopi il mio fotomontaggio a calci do cure di calcio. Cattezio 4-4 cartoni, su 4-4 non si gioca in 4 cantoni. Dammi 4 cartoni con 4 cannoni, sono il quarto, con una S sguardo copioni. È un infarto, se parto con lo stesso show, un piece magari come Tony Touch, quando touch my flow. The show must go on, e se continuo ogni sera, scrivo pare su pare su una barra di lamiera. Buonasera, ne posso cresta è criniera, la tua storia fa acqua, per questo la chiami vera. Tu ti domandi perché sono così cattivo, non possiedo il modo che possessivo. Scrivo rabbia e dolore, a tutto c'è motivazione. Ho dato troppo amore senza aver soddisfazione. Cerchi la situazione in una situazione, ma guarda come il Far West, sbaglierista bancone. Stati sul balcone, cerchi qualche sfida. Schiena a schiena, 10 passi e muori per strada. La mia pistola e il micro, tutto qui. Siete micro sulla micro, tasca micro machine. Zio al mic, quel beat rappresento. Troppe zette in testa, perché con voi mi addormento. Esci fuori dal saloon. Tu ne vuoi di più, staccale la prova al flut. Non è rose e fiori la mia vita qua giù. In duello, ti ha più cervello alla testa lì su. Esci fuori dal saloon. Tu ne vuoi di più, staccale la prova al flut. Non è rose e fiori la mia vita qua giù. In duello, ti ha più cervello alla testa lì su. Yeah, io e Fer, ci andiamo troppo seri. Facciamo a pezzi i nemici per sentirci interi. Ogni testa è un lavaggio tipo la Freud. Staponimi istanzani è come la Polaroid. Lo sai, un giro, comando più di tutto al camo. Se subì trascino tutto, manco fosse un cambio. Ho tante rime, non è solo un'impressione. Votazione a 360 come il breaker su cartone. Spalanco le fottute porte del casino. Al balcone all'entrata lo sai cosa gli do. Scambio poche parole, inizia risa al balcone. Pugni e caccia motore, anche fuori sul balcone. Lo faccio per il pop e esigo rispetto. Siamo due MCs sotto lo stesso tetto. Basta un obiettivo per sentirsi vivi, ma non bastano due rime per sentirsi vivi. Metti replay su ogni istante che rivivi. Se l'hip hop è il DNA, voi siete i geni recessivi. So che provoco dolore quando ascolti la mia voce. Ti vedo agonizzante come Cristo sulla croce. Forse per te sarà un discorso amatoriale, ma io con il maestro ho stretto un patto sepolcrale per vedere nel rap i suoi vari contorni, per spingerlo fino alla fine dei miei giorni. Esci fuori dal saloon. Tu ne vuoi di più, staccare la prova al flute. Non è rose e fiori la mia vita qua giù. In duello, ti ha più